Capitolo 7. Misteriosi spostamenti. Oh, avrà un sacco di compagnia. Non sarà solo. I miei quattro e i due nipoti di Montreal che sono qui in visita. Quello che non escogiterà uno lo faranno gli altri. La grande, prosperosa, gioviale Mrs. Parker sorrise espansiva a Walter, che restituì un sorriso piuttosto distaccato. Non era del tutto sicuro che gli piacesse Mrs. Parker, a dispetto dei sorrisi e della sua allegria. Era esagerata in un modo o nell'altro. Il dottor Parker invece gli piaceva. Per quanto riguardava i nostri quattro e la nipote e il nipote di Montreal, Walter non aveva mai visto nessuno di loro. Lowbridge, dove i Parker vivevano, era a 6 miglia dal Glen e Walter non c'era mai stato, anche se il dottor Parker e sua moglie e il dottor Blythe e sua moglie si frequentavano spesso. Il dottor Parker e papà erano grandi amici, anche se Walter aveva la sensazione che alle volte alla mamma non dispiacesse affatto fare a meno di Mrs. Parker. Anche a 6 anni Walter, come Anna aveva capito, poteva vedere cose che altri bambini non potevano vedere. E il piccolo non era sicuro, neanche davvero, di voler andare a Lowbridge. Alcune visite erano state splendide. Un viaggio ad Avon Lee, allora, ah, era stato un vero divertimento. E una notte trascorsa con Kenneth Ford alla vecchia House of Dreams, la casa dei sogni, era stato ancora più divertente. Ma che non poteva davvero essere definita una visita alla casa dei sogni, era sempre parsa loro come una seconda casa, la seconda casa di Ingleside. Ma andare a Lowbridge per 2 settimane intere, fra estranei, era una questione molto diversa. Tuttavia, sembrava essere ormai una cosa stabilita. Per qualche ragione che Walter sentiva ma non riusciva a capire, papà e mamma erano contenti per la sistemazione. Volevano sbarazzarsi di tutti i loro figli. Walter si chiese, piuttosto triste e inquieto, se fosse questo. Gemma era assente, essendo stato accolto ad Avon Lee 2 giorni prima. E aveva sentito Susan fare osservazioni misteriose sul mandare le due gemelle dalla signora Marshall Elliott quando sarà il momento. Quale momento? Zia Mary sembrava molto cupa per qualcosa e aveva capito, dato che l'aveva sentita dire: vorrei che tutto fosse già finito. Cos'era ciò che lei voleva che fosse finito? Walter non ne aveva idea, ma c'era qualcosa di strano nell'aria a Ingleside. Lo porterò su domani, disse Gilbert. I miei bambini sono molto eccitati. Oh, è molto gentile da parte sua, veramente, dichiarò Anna. È tutto sistemato per il meglio, senza dubbio, affermò Susan rivolta a Gamberetto minacciosamente in cucina. È molto gentile che Mrs. Parker tenga Walter al largo delle nostre mani, Annie, disse zia Mary quando i Parker se ne furono andati. Mi ha detto che l'ha preso proprio in simpatia. La gente ha tali strane fantasie, non è vero? Beh, forse ora per almeno 2 settimane sarò in grado di andare in bagno senza camminare su un pesce morto. Un pesce morto, zia? Non intendo. Intendo dire esattamente quello che ho detto, Annie, lo faccio sempre. Un pesce morto. Tu sei mai passata su una specie di pesce morto con i piedi nudi? No, ma come? Walter ha preso una trota l'altra sera e l'ha messa nella vasca da bagno per tenerla in vita. Cara, la mia signora dottora, disse Susan con disinvoltura. Se fosse rimasta lì non ci sarebbero stati problemi, ma in qualche modo è uscita ed è morta nella notte. Naturalmente, se la gente va in giro a piedi nudi. Oh, mi sono imposta la regola di non litigare con nessuno, dichiarò zia Mary, alzandosi e lasciando la stanza. Io stabilisco che lei non deve irritare me, cara la mia signora dottora, replicò Susan. Oh, Susan, anche a me mi ha un po' esasperata, ma naturalmente non ci daremo più molta importanza quando tutto questo sarà finito. E deve essere brutto camminare su un pesce morto. Non è meglio un pesce morto di uno vivo, mamma? Un pesce morto non si dimena, sostenne Dee. Dal momento che la verità deve essere detta a tutti i costi, si deve ammettere che la padrona e la domestica di Ingleside entrambe ridacchiarono. Le decisioni erano dunque prese, ma Anna quella notte chiese a Gilbert se Walter sarebbe stato abbastanza felice a Lowbridge. È così tanto sensibile, ricco di immaginazione, disse malinconicamente. Ah, anche troppo, disse Gilbert, che era stanco dopo aver avuto, per citare Susan, tre bambini quel giorno. Buon Dio, Anna, credo che il bambino abbia paura di salire le scale al buio, gli farà solo bene dai Parker mischiarsi un po' coi bambini della sua età. Per qualche giorno. Verrà a casa un bambino diverso, vedrai. Anna non disse più niente. Gilbert aveva senza dubbio ragione. Walter si sarebbe sentito solo senza Jem. E in vista di ciò che era accaduto quando era nata Shirley, sarebbe stato ideale per Susan avere a che fare con il minor numero di cose al di là della casa e pazientare con zia Mary. Quelle 2 settimane si erano già allungate a 4. Walter era sveglio nel suo letto e tentava di scappare, dando libero sfogo alla fantasia, dal pensiero ossessivo che il giorno dopo sarebbe dovuto partire. Aveva sì una fantasia molto vivida. Immaginava un grande destriero bianco come quello nella foto sul muro, su cui poteva galoppare avanti o indietro nel tempo e nello spazio. La notte era calata, una notte simile a un grande scuro angelo con ali di pipistrello che viveva nei boschi di Mr. Andrew Taylor sulla collina a sud. A volte Walter l'aveva accolta con favore, a volte la immaginava in modo così vivido che ne aveva paura. Walter drammatizzava e personificava tutto nel suo piccolo mondo. Il vento che gli raccontava storie di notte, il gelo che bruciava i fiori nel giardino, la rugiada che cadeva così argentea e in silenzio, la luna che era sicuro che l'avrebbe potuta afferrare se solo fosse potuto andare in cima a quella lontana collina viola, e la nebbia che arrivava dal mare, e il grande mare stesso che era in continua evoluzione e non cambiava mai. La oscura, misteriosa marea. Erano tutte entità vive per Walter. Ingleside e la conca e il boschetto di aceri e la palude e la costa del porto erano pieni di elfi e spiriti maligni delle acque e driadi e sirene e folletti. Il gatto nero di gesso nella libreria, sulla mensola del caminetto, era una strega. Di notte diventava viva e si aggirava dopo essere diventata enorme per la casa. Walter abbassò la testa sotto le coperte con un brivido. Si spaventava sempre delle sue stesse fantasie. Forse zia Mary aveva ragione quando diceva che era troppo nervoso e facilmente eccitabile, anche se Susan non l'avrebbe mai perdonata per questo. Forse la zia Kitty McGregor a Upper Glen, che era segnalata per essere una chiaroveggente, aveva ragione quando una volta dato uno sguardo in profondità dentro agli occhi grigio fumo dalle lunghe ciglia di Walter, aveva dichiarato: "È fatto con una vecchia anima in un corpo giovane." Poteva essere che la vecchia anima sapesse troppe cose e che non sempre il cervello giovane riusciva a capire. In mattinata a Walter fu detto che papà lo avrebbe portato all'Oak Ridge dopo aver mangiato. Non disse nulla, ma mentre mangiava una sensazione di soffocamento lo investì e abbassò gli occhi in fretta per nascondere una nebbia improvvisa di lacrime. Non abbastanza in fretta, però. Non comincerai a piangere, Walter, disse zia Mary, come se un bimbo di 6 anni cadesse in disgrazia per sempre, piangendo. Se c'è qualcosa che disprezzo è un piagnicolone. E non hai mangiato la tua carne. Tutto, ma non il grasso, disse Walter con un rapido, valoroso lampo negli occhi, ma non osando ancora alzare lo sguardo. Non mi piace il grasso. Quando ero una bambina, disse zia Mary, non mi era permesso avere simpatie o antipatie. Beh, Mrs. Parker si prenderà probabilmente cura di alcune tue idee. Lei era una Winter, credo. O era una Clark? No, lei deve essere stata una Campbell. Ma sia gli Winter che i Campbell tutti hanno gli stessi difetti o cattive qualità e non sopportano una qualsiasi sciocchezza. Oh, ti prego, zia Mary, non spaventare Walter. A proposito della sua visita all'Oak Ridge, disse Anna con un barlume di fiamma lontano giù nei suoi occhi. Mi dispiace, Annie, disse zia Mary con grande umiltà. Avrei dovuto naturalmente ricordare che non ho il diritto di cercare di insegnare niente ai vostri figli. Accidenti alla sua pelle, borbottò Susan mentre usciva con il dessert, il budino Queen, il preferito di Walter. Anna si sentiva miseramente in colpa. Gilbert le aveva lanciato un leggero sguardo di rimprovero, come a sottintendere che avrebbe potuto essere più paziente con la povera, sola, vecchia signora, zia Mary. Gilbert si sentiva un po' stanco. La verità, come tutti sapevano, era che era stato terribilmente oberato di lavoro per tutta l'estate e forse zia Mary era stato uno sforzo in più, ma non voleva ammetterlo. Anna aveva deciso che in autunno, se tutto andava bene, l'avrebbe impacchettato e spedito, volente o nolente, per un mese a sparare al beccacino in Nova Scozia. «Com'è il tuo tè?» chiese pentita a zia Mary. Zia Mary strinse le labbra. «Oh, troppo chiaro, ma non importa. A chi interessa se è una povera vecchia? Beve un tè di suo gradimento o no. Alcune persone però pensano che io sia veramente una buona compagnia». Quale fosse la connessione tra le due frasi di zia Mary, Anna sentiva che non aveva intenzione di scoprirlo in quel momento, stava diventando molto pallida. Penso che andrò al piano di sopra a coricarmi un po', disse debolmente e si alzò dal tavolo. E io credo, Gilbert, è forse meglio che tu non rimanga a lungo a Lowbridge, ritengo sia meglio chiamare Miss Carson. Baciò e salutò Walter piuttosto casualmente e in fretta, un po' come se non stesse pensando a lui per niente. Walter non voleva piangere. Zia Mary lo baciò sulla fronte. Walter odiava quell'umido bacio sulla fronte e disse: «La zia, bada di essere educato a tavola a Lowbridge. Walter, bada a non fare l'ingordo. Se lo fai, un grande uomo nero arriverà con un grande sacco nero dove infila i bambini cattivi». Era stata una fortuna che Gilbert fosse uscito a mettere i finimenti a Grey Tom e non aveva sentito. Lui e Anna avevano deciso di usare sempre la regola di non spaventare i bambini con quelle cose, né permettere a chiunque altro di farlo. Susan aveva sentito mentre sparecchiava la tavola e zia Mary non seppe mai quanto fosse stata vicina a ricevere sulla testa la salsiera con tutto ciò che conteneva. Capitolo 8. Morte e vita. Generalmente a Walter piaceva viaggiare con papà. Amava la bellezza e le strade intorno a Glen. Erano piacevoli. La strada per Lowbridge era una doppia striscia di ranuncoli danzanti con qua e là molte verdi felci ai margini di un invitante boschetto. Ma oggi papà non sembrava voler parlare molto e guidava Grey Tom come mai Walter si ricordava di averlo visto prima. Quando raggiunsero Lowbridge, disse poche parole in fretta da parte con Mrs. Parker e si precipitò fuori senza aspettare di salutare Walter. Walter ancora una volta dovette faticare per non piangere. Era fin troppo chiaro che nessuno lo amava. Mamma e papà lo avevano fatto, ma adesso non lo facevano più, non lo amavano più. La grande, disordinata casa Parker a Lowbridge non sembrava tanto amichevole a Walter, ma forse nessuna casa lo sarebbe stata in quel momento. Mrs. Parker lo portò fuori in cortile, da dove risuonavano rumorose grida di gioia che sembravano riempirlo, e lo presentò ai bambini. Poi lei prontamente tornò a cucire, lasciandolo con loro per familiarizzare da soli, tra virgolette. Un procedimento che funzionava molto bene in 9 casi su 10. Forse non poteva essere incolpata di non aver visto che il piccolo Walter Blythe era il decimo. Gli piaceva il bambino. I suoi figli erano dei piccoli allegri marmocchi. Fred e Opal erano inclini a darsi delle arie, arrivando da Montreal. Ma si sentiva abbastanza sicura che non avrebbero fatto del male a nessuno e tutto sarebbe andato liscio. Era così contenta che poteva dare un aiuto alla povera Anna Blythe, anche se era solo togliendole uno dei suoi figli dalle mani. Mrs. Parker sperava che tutto sarebbe andato bene. Gli amici di Anna in gran parte si preoccupavano per lei più che lei per se stessa, ricordandosi ognuno della nascita di Shirley. Un improvviso silenzio era sceso nel cortile sul retro. Un cortile che ruscellava in un grande ombroso frutteto di mele. Walter rimase a guardare gravemente e timidamente i bambini Parker e i loro cugini Johnson da Montreal. Bill Parker aveva 10 anni, un rubicondo, faccia tonda da monello che assomigliava alla madre e sembrava molto vecchio e grande agli occhi di Walter. Andy Parker aveva 9 anni e i bambini di Lowbridge avrebbero potuto raccontare che era uno dei cattivi Parker, soprannominato Maiale per buone ragioni. A Walter non era piaciuto il suo aspetto fin da subito. I suoi capelli corti, biondi, ispidi, il suo sbarazzino viso lentigginoso, i suoi sporgenti occhi blu. Fred Johnson aveva l'età di Bill e a Walter non piaceva neppure lui, benché fosse un bel tipo con fulvi, riccioli e occhi neri. Sua sorella di 9 anni, Opal, aveva riccioli e occhi neri, troppo scintillanti occhi neri. Se ne stava con il braccio attorno alla bionda testa di Cora Parker, che aveva 8 anni, ed entrambe guardavano Walter con aria di sufficienza. Se non fosse stato per Alice Parker, è molto probabile che Walter si sarebbe voltato e sarebbe scappato. Alice aveva 7 anni. Aveva sull'intera testa meravigliose piccole onde di riccioli d'oro, occhi blu tenue come le violette della conca e rose fossette sulle guance. Portava un grazioso abito increspato giallo nel quale sembrava un danzante ranuncolo e gli sorrise come se lo avesse conosciuto da tutta la vita. Alice era una sua amica, decisamente. Fred iniziò la conversazione. Ciao, ragazzo mio, disse con condiscendenza. Walter sentì quell'aria di superiorità e immediatamente si ritirò in se stesso. Il mio nome è Walter, disse chiaramente. Fred si voltò verso gli altri con finto stupore. Voleva mettere in imbarazzo quel ragazzo di campagna. Ah, oh, lui dice che il suo nome è Walter, riferì a Bill torcendo comicamente la bocca. Lui dice che il suo nome è Walter, disse a sua volta Bill a Opal. Lui dice che il suo nome è Walter, disse Opal a Andy. Lui dice che il suo nome è Walter, disse Andy a Cora. Lui dice che il suo nome è Walter, ridacchiò Cora ad Alice. Alice non disse nulla. Guardava con ammirazione Walter, che con quello sguardo poteva farsi coraggio quando tutti gli altri iniziarono a cantare insieme. Lui dice che il suo nome è Walter, lui dice che il suo nome è Walter. E poi scoppiarono in grandi risate di scherno e gridarono. Quanto si stanno divertendo quei piccoli cari, pensò Mrs. Parker soddisfatta, continuando i suoi lavori. Ho sentito la mamma dire che credi nelle fate, disse Andy, ghignando sfacciatamente. Walter lo guardò, impassibile. Non si sarebbe fatto intimidire davanti ad Alice. Ci sono le fate, disse fermamente. No, che non ci sono, disse Andy. Ci sono, disse Walter. Lui dice che ci sono le fate, disse Andy a Fred. Lui dice che ci sono le fate, disse Fred a Bill e tornarono a ripetere la canzonatura precedente. Era una tortura per Walter, che non era mai stato preso in giro prima e non poteva accettarlo. Si morse le labbra per fermare le lacrime perché non voleva piangere davanti ad Alice. Come ti piacerebbe essere pizzicato e riempito di lividi? Chiese Andy, che si era convinto che Walter fosse una femminuccia e che sarebbe stato divertente prenderlo in giro. Maiale, zitto! Ordinò Alice terribilmente, proprio in modo terribile, anche se molto piano e dolcemente e delicatamente. C'era qualcosa nel suo tono che anche Andy non osò sfidare. Certo, non volevo, mormorò con vergogna. Il vento girò un po' a favore di Walter e fecero un gioco abbastanza piacevole all'acchiapparella nel frutteto. Ma quando la truppa marciò rumorosamente in casa per la cena, Walter fu nuovamente sopraffatto dalla nostalgia di casa. Fu così terribile che per un orribile momento temette di mettersi a piangere davanti a tutti, perfino davanti ad Alice, che tuttavia diede sul suo braccio una piccola gomitata amichevole dopo che si furono seduti, cosa che lo aiutò. Ma lui non riusciva a mangiare nulla, semplicemente non poteva. Miss Parker, per i cui metodi educativi c'era sicuramente qualcosa da dire, non si preoccupò per lui a quel proposito. Comodamente concluse che il suo appetito sarebbe migliorato il mattino seguente e gli altri erano troppo occupati a mangiare e parlare per farci caso. Walter si chiedeva perché tutta la famiglia gridasse così dall'una parte all'altra del tavolo, ignaro del fatto che non avevano ancora avuto il tempo di perderne l'abitudine dopo la recente morte di una nonna molto vecchia e molto sorda. Il rumore gli aveva fatto venire mal di testa. Oh, a casa ora staranno mangiando la cena. La mamma starà sorridendo da un capo del tavolo. Il papà starà scherzando con le gemelle. Susan starà versando la crema nella tazza del latte di Shirley. Nan starà di nascosto dando bocconcini a Gamberetto. E anche zia Mary, come parte della cerchia familiare, sembrava improvvisamente circondata da una gentile e delicata luminosità. Chi avrebbe suonato il gong cinese per cena? Era la settimana che spettava lui e Gem era via. Oh, se si potesse solo trovare un posto per piangere. Ma non sembrava esserci alcun luogo in cui potersi abbandonare alle lacrime a Lowbridge. Inoltre, c'era Alice. Walter buttò giù tutto un bicchiere d'acqua e ghiaccio, scoprendo che era stato di aiuto. Il nostro gatto ha spesso delle convulsioni, disse Andy a un tratto scalciando sotto il tavolo. Anche il nostro fa così, disse Walter. Gamberetto aveva avuto due convulsioni e lui non aveva intenzione di lasciare che i gatti Lowbridge fossero valutati superiori a quelli di Ingleside. Scommetto che il nostro gatto ha più convulsioni dei tuoi. Schernì Andy. Scommetto di no, ribatté Walter. Via, via, non mettetevi a discutere sopra i vostri gatti, disse Mrs. Parker, che voleva una serata tranquilla per scrivere un articolo per il giornale dell'istituto. Argomento bambini incompresi. Uscite di corsa a giocare, fra non molto sarà ora di andare a dormire. Andare a dormire. Walter improvvisamente si era reso conto che doveva rimanere lì tutta la notte, molte notti, 2 settimane di notti. Era terribile. Uscì nel frutteto stringendo i pugni. Trovò Bill e Andy in un furioso corpo a corpo sull'erba, scalciando, graffiando, urlando. Tu mi hai dato una mela bacata, Bill Parker, stava urlando Andy. Ti insegnerò io a darmi mele bacate. Ti staccherò con un morso le orecchie. Lotte di questo tipo erano all'ordine del giorno tra i Parker. Mrs. Parker sosteneva che non faceva male ai ragazzi combattere. Diceva che era un modo per far uscire fuori un sacco di diavoleria dai loro organismi e che dopo rimanevano tanto buoni amici come sempre. Ma Walter non aveva mai visto nessuno lottare ed era sbalordito. Fred li incitava. Cora e Opal ridevano, ma c'erano delle lacrime negli occhi di Alice. Walter non lo poteva sopportare. Si scagliò tra i combattenti che si erano separati un momento per prender fiato prima di entrare nuovamente in battaglia. Smettete di combattere, disse Walter. State spaventando Alice. Bill e Andy lo fissarono con stupore per un attimo. Poi, divertiti dall'intrusione di quel bambino nella loro lotta, i due scoppiarono a ridere e Bill gli diede una pacca sulla schiena. Ehi, fegato! Ragazzo, disse, hai intenzione di diventare un vero ragazzo un giorno, se crescerai. Eccoti una mela, ed è pure senza vermi. Alice si asciugò le lacrime dalle sue morbide guance rosa e guardò con adorazione Walter, cosa non gradita da Fred. Ovviamente Alice era solo una bambina, ma perché le bambine avrebbero dovuto avere un qualche interesse nel guardare con adorazione altri ragazzi quando lui, Fred Johnson da Montreal, era nei dintorni? Doveva fare qualcosa al riguardo. Fred era stato in casa e aveva sentito la zia Jen, che aveva parlato al telefono, dire qualcosa allo zio Dick. Tua madre è tremendamente malata, disse Walter. Lei non lo è, gridò Walter. Lo è molto, l'ho sentito dire dalla zia Jen allo zio Dick. Fred aveva sentito sua zia dire Anna Blythe è malata. Ed era stato divertente aggiungere quel tremendamente. Probabilmente sarà morta prima che torni a casa. Walter si guardò attorno con gli occhi tormentati. Ancora una volta Alice era schierata con lui e ancora il resto della banda riunita attorno alla bandiera di Fred. Sentivano qualcosa di alieno su quel bruno attraente bambino. Sentivano l'impulso di prenderlo in giro. Se è malata, disse Walter, papà la curerà. Lui avrebbe. Lui doveva. Ho paura che sarà impossibile, disse Fred, facendo il muso lungo, ma strizzando l'occhio a Andy. Nulla è impossibile per papà, insistette Walter fedelmente. Perché Ras Carter è andato a Charlottetown solo per un giorno della scorsa estate e quando è tornato a casa sua madre era indubbiamente morta, disse Bill. E poi sepolta, disse Andy, pensando di aggiungere un tocco in più di drammatico. Poco importava che fosse vero o no. Ras era furioso di aver perso il funerale. I funerali sono così allegri. E io non ho mai visto un singolo funerale, disse Opal tristemente. Ci saranno ancora un sacco di occasioni per te, disse Andy. Ma vedi che persino papà non poté tenere Mrs. Carter viva e lui è un medico molto meglio di tuo padre. Lui no, non lo è. Oh, sì, lo è, è molto più bello anche. No, lui non lo è. Succede sempre qualcosa quando si va lontano da casa, disse Opal. Come ti sentiresti se quando vai a casa trovassi che Ingleside è bruciata in un incendio? Se tua madre muore, probabilmente i bambini saranno tutti separati, disse allegramente Cora. Forse verrai a vivere qui. Oh, sì, disse Alice con dolcezza. Oh, suo padre vorrebbe tenerli, disse Bill. Sarà presto che si sposerà di nuovo. Ma forse pure suo padre morirà. Ho sentito papà dire che il dottor Blythe si stava uccidendo di lavoro. Guardate come ci fissa. Hai gli occhi delle ragazze, figliolo, gli occhi delle ragazze, gli occhi delle ragazze. Oh, stai zitto, disse Opal improvvisamente stanca del gioco. Lo stai prendendo in giro, lui sa che sono solo scherzi. Andiamo giù al parco a guardare la partita di baseball. Walter e Alice possono restare qui, non possiamo avere i bambini sempre dietro ovunque. Walter non era dispiaciuto nel vederli andar via, e neanche Alice, apparentemente. Si sedettero su un ceppo di melo, guardandosi timidamente e con soddisfazione l'uno dell'altra. Ti faccio vedere come giocare al gioco dei sassolini, disse Alice, e ti presto il mio canguro di peluche. Quando venne il momento di coricarsi, Walter si trovò da solo in una piccola camera da letto. Mrs. Parker premurosamente lasciò una candela con lui e un caldo piumino. Per una notte di luglio era irragionevolmente freddo, come è a volte una notte d'estate nelle province di mare. Sembrava quasi che ci potesse essere il gelo. Ma Walter non riusciva a dormire. Nemmeno con il canguro di peluche di Alice coccolato sulla sua guancia. Oh, se solo fosse stato a casa nella sua stanza, dove la grande finestra dava su Glen e la piccola finestra con un piccolo tetto tutto suo guardava sul pino silvestre. La mamma entrava, gli leggeva la poesia con la sua incantevole voce. Sono un ragazzo grande, non voglio piangere, non voglio. E le lacrime scesero a dispetto di se stesso. A cosa servono i canguri di peluche? Sembravano anni da quando aveva lasciato la sua casa. In quel momento gli altri bambini tornarono dal parco e affollarono amabilmente la stanza, sedendosi sul letto e mangiando le mele. Hai pianto, bimbo? Lo schernì Andy. Sei nient'altro che una dolce piccola ragazzina, il tesoro della mamma. Un boccone, ragazzo? Disse Bill porgendo una mezza mela rosicchiata. Oh, e su con la vita, non sarei sorpreso se tua madre fosse migliorata. Lei ha il fisico, questo è certo. Papà dice che Mrs. Stephen Flagg sarebbe morto un anno fa se non avesse avuto il fisico. Tua madre ce l'ha? Certo che ce l'ha, disse Walter. Non aveva idea di cosa fosse un fisico, ma se Mrs. Stephen Flagg l'aveva, anche la sua mamma doveva averlo. Mrs. Ab Sawyer è morta la settimana scorsa. E la madre di St. Clark è morta la settimana prima, disse Andy. Sono morte nella notte, disse Cora. La mamma dice che la maggior parte delle persone muore durante la notte. Spero che non mi succeda. Immagina andare in paradiso in camicia da notte. Bambini, bambini, ognuno nel proprio letto, chiamò Mrs. Parker. E i ragazzi andarono, dopo aver fatto finta di soffocare Walter con l'asciugamano. Dopotutto quel ragazzino a loro piaceva. Walter afferrò la mano di Opal mentre lei si allontanava. Opal, non è vero che la mamma è malata, vero? Sussurrò implorante. Non poteva affrontare di essere lasciato solo con la sua paura. Opal non era una bambina diabolica, come Mrs. Parker diceva, ma non riusciva a resistere al brivido nel raccontare una cattiva notizia. Oh, lei è malata, zia Jen lo dice. Lei aveva detto che noi non dovevamo dirtelo. Ma penso che dovresti saperlo, forse lei ha un cancro. Tutti devono morire, Opal? Questa era un'idea nuova e terribile per Walter, che non aveva mai pensato prima. Certo, sciocco, solo che non muoiono davvero, vanno in paradiso, disse Opal allegramente. Non tutti, disse Andy, che stava ascoltando fuori dalla porta, in un sussurro da maiale. Il paradiso è più lontano di Charlottetown? Chiese Walter. Oh, Opal strillò in una risata. Beh, tu sei strano. Il paradiso è distante milioni di miglia. Ma io ti dico cosa fare. Prega, prega bene. Ho perso un decino una volta e ho pregato e ne ho trovati 25. Ecco quello che so. Opal Johnson, hai sentito cosa ho detto? E spegni la candela nella camera di Walter. Ho paura del fuoco, richiamò Mrs. Parker dalla sua stanza. Avrebbe dovuto dormire già da tempo. Opal spense la candela e volò via. Zia Jen era molto buona, ma quando si arrabbiava, Andy mise la testa fuori dalla portata per dare la benedizione della buonanotte. Probabilmente quegli uccelli nella carta da parati prenderanno vita e individueranno i tuoi occhi, sibilò. Dopo che ognuno fu veramente andato a letto, si aveva la sensazione che fosse finita una giornata perfetta, E Walter Blythe non era poi un bambino cattivo e domani si sarebbero ancora un po' divertiti a canzonarlo. Care piccole anime, pensò sentimentalmente Mrs. Parker. La quiete scese sulla casa dei Parker. Intanto, a 6 miglia di distanza, a Ingleside, la piccola Berta Marilla Blythe stava sbattendo le palpebre, coi suoi tondi occhi nocciola, alle facce felici intorno a lei e al mondo nel quale era stata accompagnata durante la più fredda notte di luglio che le province del mare avessero sperimentato negli ultimi 87 anni.